Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Bene, oggi vi porterò, cari gastronauti, cari radioascoltatori, a fare un giro dell'Italia nel cibo di strada, anche perché questo fenomeno sta crescendo e anche molto, non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo. Poi ne parleremo, perché anche negli Stati Uniti è un fenomeno veramente che viene visto con grande attenzione. Parleremo del vero cibo di strada, non quello taroccato, quello imitato. Andremo a scoprire questi chioschi che sono in giro per l'Italia, che e poi trasmettono l'identità territoriale e la tradizione. A questo proposito voglio fare una chiosa, e sarà molto polemico. Ho letto nei giorni scorsi che a Reggio Emilia nelle scuole è stato bandito l'erbazzone. L'erbazzone è il cibo di strada, il vero cibo è, diciamo, la gloria di Reggio Emilia. È stato bandito perché contiene qualche milligrammo di lardo. Veramente incredibile questa storia, anche perché i nostri ragazzi perderanno sempre di più il gusto, e anche grazie a questi guru, questi santoni della salute che ormai imperversano un po' dappertutto con libri, trasmissioni televisive. Bene, perderemo molto grazie a loro, grazie alle loro responsabilità. Ma ora cominciamo questo giro, perché voglio che siano conosciuti questi chioschi e voglio che siano conosciute queste specialità tradizionali e straordinarie. Ebbene, inizierò da Firenze, però andrò poi anche in Romagna, perché sono stato cresciuto a Piadina e poi ho scoperto una volta a Firenze, nel mio periodo universitario, il Lampredotto. Ed ecco il Lampredotto. Andiamo da un trippaio di via Gioberti, uno dei cinque o sei superstiti di questi chioschi straordinari, che sono sempre contornati dagli stranieri anche, e soprattutto perché, diciamo, ormai è diventato un po' il simbolo anche di Firenze. Buongiorno Marco Bolognesi. Buongiorno a te, buongiorno. Allora Marco, lo mangiamo bagnato o asciutto il Lampredotto? Lo mangiamo inzuppato il Lampredotto. Inzuppato. Parole fiorentine, nel senso che niente, il nostro Lampredotto è il nostro fiore all'occhiello, perché addirittura nasce ancora prima della bistecca alla fiorentina, perché essendo ciccia, la ciccia era fatta per la nobiltà, mentre il Lampredotto era il piatto dei poveri. Ecco, diciamo subito che in giro per l'Italia il cibo di strada è veramente un cibo nato come povero, perché era quello che si veniva escluso. Però io, numero verde, voglio anche invitare i nostri radioascoltatori a intervenire, 800 24 00 24. Marco, voglio che tu spieghi che il Lampredotto non è una trippa, perché tutti credono che sia una trippa. Spiega cos'è. Diciamo che la mucca ha quattro stomaci, cosiddette camere di combustione, nel senso che essendo un ruminante va a ruminare via via il mangiare, per cui si parla, lo dico in fiorentino, nel senso che i primi due stomaci sono la trippa che tutta Italia conosce, addirittura Firenze con Caterina de' Medici la importò per prima in Francia. Poi si parla del centopelli, che è un altro stomaco che in antichità noi facevamo a Firenze delle minestre deliziose. Ora è caduto un po' in disuso, però secondo me riprenderà benissimo con l'andare del tempo. E poi arriviamo al quarto stomaco per eccellenza, il nostro stomaco fiorentino, che è il Lampredotto, quello che va ad attaccarsi all'intestino. Bene Marco, io so che tu hai tanta gente già davanti e ti lascio nel nome del Lampredotto, e io faccio tanti auguri a te e agli altri cinque carretti, che rimaniate ancora per tanto e lungo tempo. Grazie Marco per averci spiegato cos'è il Lampredotto. Sentiamo, c'è già un radioascoltatore, Fabio da Milano. Buongiorno Fabio. Buongiorno Paolini. Senta, io adoro le piadine e mi è difficile trovare quelle, non pretendo addirittura fatte sul posto a mano, ma quelle di un certo spessore, direi 3-4 mm, anche in giro, anche nei supermercati, si trovano sempre quelle sottilissime, anzi puntano sul fattore sottigliezza. Come mai? Bah, guardi, io non so perché puntano su questo, forse perché probabilmente è il gusto di oggi. Io so solo che esiste una ricetta, perché la piadina ha una tradizione culturale straordinaria. Vorrei ricordare che fine 800, primo 900 c'era un movimento di veristi che si chiamava La Pie in quel di Forlì, e c'è una poesia di Aldo Spallicci che spiega appunto la ricetta della piadina. cittadina dove sicuramente qualcuno storcerà la bocca, perché si parla addirittura di strutto e quindi credo che già appunto i santoni della salute, figuriamoci, parlano di un milligrammo di lardo, fanno storie, figuriamoci sullo strutto. Ma guardi, questo lo scopriremo, perché poi più tardi avremo proprio un chiosco di Rimini, ce lo faremo spiegare. Ma noi andiamo in un posto stupendo per le alici, andiamo a Cetara al convento da Pasquale Torrente. Buongiorno Pasquale. Ciao Davide, buongiorno, come stai? Bene, bene, ma Pasquale è diventato famoso in tutta Italia ormai per il cartoccio del pesce fritto, è vero Pasquale? Vabbè, sì, siamo diventati famosi anche grazie a Oscar Farinetti con Italy, avevamo questa idea di portare il cibo da strada in giro non solo per l'Italia, lo faremo nel mondo praticamente, perché fra poco apriremo con Italy a Istanbul, a Dubai, San Paolo, è una grande vittoria del Made in Italy. Ecco, volevo chiederti questo, cosa c'è dentro il cartoccio, quali pesci ci sono? Ma guarda Davide, noi facciamo quello solo alici, facciamo il misto con calamari e gamberi, facciamo il misto di tutto, diciamo pesce da paranza, non prendiamo pesce sotto misura, solo pesce che viene certificato con le misure giuste. La cosa importante è che noi friggiamo nel cartoccio, abbiamo anche il cartoccio classico napoletano, dove facciamo la zeppolina fritta, la pasta cresciuta, il crocchè, la polpetta di melanzane, facciamo le patatine fritte per i ragazzi con le patate, quindi gli spieghiamo che la patata non cresce in una busta ma si raccoglie. Pasquale, tu mi fai già venire fame, ma io niente, ti ringrazio e presto so che sarai a Milano, quindi sì, verremo. Volevo dire una cosa, che noi friggiamo in olio extravergine. Ah ecco, questo è importantissimo, grazie. Per le verdure e per il pesce in olio alto oleico, abbiamo fatto una ricerca insieme a Italy perché l'alto oleico è un olio che riesce a mantenere alte le temperature, quindi cerchiamo di fare un fritto che fa bene. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in giro per l'Italia a scoprire questi chioschi e chioschetti. Beh, arrivano 2-3 sms che appunto a proposito dell'erbazzone dicono beh, poi portano i ragazzi da McDonald's. Ecco, questo è un po' il risultato che è ottenuto dai santoni. Bene, sentiamo Giuseppe da Roma, radioascoltatore. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Io passo a un cibo che è un po' diverso dal fritto venduto in strada, che comunque si può trovare in tutta Italia, ecco, con delle varianti, magari contenuti, gamberetti, alici o quello che è. Invece questo è un piatto che io ritengo sia caratteristico proprio solo della Campania, perché chi c'è stato per lavoro o c'è passato e l'ha assaggiato lo capisce, altrimenti lo disprezza e lo guarda addirittura con sdegno. Ed è opereo mousse, praticamente certo. come dice lei, viene venduto in strada su dei furgoni appositamente modificati, e tra parentesi io non so se abbiano poi tutti i requisiti, come stava dicendo lei, riguardo 2-3 grammi di lardo rispetto, ecco, alle norme igieniche o quant'altro. Comunque è una cosa appunto che viene gustata soprattutto dai napoletani. Si tratta delle parti meno nobili delle mucche o del maiale, che vengono bollite in autoclave, mantengono una loro compattezza e poi vengono condite semplicemente con limone e sale. Bene, grazie Giuseppe, le rispondo su questa, diciamo, come posso dire, battuta ironica messa nel suo discorso sull'igiene. Bene, devo dire che guardando le cronache dei giornali non mi è mai capitato di vedere che ci sono stati, diciamo, avvelenamenti o malori di chi ha mangiato qualcosa da questi carretti, mentre ho visto moltissimi alcuni casi di acquisti fatti al supermercato e altrove di prodotti ben sigillati, ben contenuti e ben controllati. Beh, comunque continuiamo questo viaggio e ora io vado a Maglie. Devo dire che mi ha molto sorpreso ultimamente. Sono stato a vedere il mercatino e devo dire che ho trovato i prodotti straordinari della Puglia appunto salentina, ma ho trovato anche un qualcosa di straordinario che si chiama la puccia salentina. Veramente, ripensandoci, mi viene l'acquolina alla gola. E allora io ho sentito proprio questa puccia di Federico Troisi, il fusticino. Buongiorno Troisi. Salve, buongiorno. Allora, ci racconta cos'è la puccia? Guardi, praticamente in realtà è un prodotto abbastanza semplice, in quanto è praticamente la pasta della pizza, invece di venire stesa, viene stesa col palmo della mano soltanto, quindi giusto un pochettino, poi messo dell'olio extravergine sopra che gli dà colore e cotta nel forno. Dopodiché viene aperta come un panino e dentro metto solitamente prodotti a presidio slow food come il capocollo di Martina Franca o la soppressata e quant'altro, insomma, anche il tonno con limena. Quindi diciamo un prodotto semplice però molto gustoso, perché poi è fragrante, molto profumato ed è piaciuto molto, diciamo. Senta Federico, contento. So che ci sono, io ho visto anche delle varianti oltre diciamo, ci sono anche solo formaggi, mettete, sì, pomodori. Sì, assolutamente, abbiamo messo anche del formaggio pecorino nostro, del canestrato, i pomodori della nostra terra, insomma, visto che comunque il segreto nel pane, ci racconti, diciamo, perché che il pane è ottenuto con la rimacinatura della farina. Sì, praticamente è una semola di grano duro rimacinata che viene prodotta, questo è un prodotto particolare, viene fatto da Selezione Casillo, diciamo, e dà proprio questo profumo, proprio ricorda proprio il pane che viene fatto nel forno appena uscito dal forno. Sì, io l'ho assaggiato e ho sentito questo odore, lei ha perfettamente ragione. È molto caratteristico, diciamo che è proprio quello che poi dà piacere. Poi a prodotti di qualità normalmente. È la chiave del prodotto. Sì. Grazie Federico. Sì, Federico Amaglia, il fusticino, numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Ora sentiamo Pino da Bari. Buongiorno Pino, ascoltatore. Buongiorno Paolini, buongiorno. Prego. Complimenti per la trasmissione. Bene. Mi sono permesso di intrufolarmi anch'io. A Bari il cibo per strada è caratterizzato dalle nostre sgagliozze e anche dalle nostre pupizze. Ma no, mi dica cosa sono le sgagliozze. Le sgagliozze sono praticamente polenta raffreddata, tagliata a rettangoli e buttata, calata, fritta nell'olio bollente. Le pentole o le popizze sono invece massa, normalmente massa da pizza cresciuta, parecchio cresciuta, a sua volta calata nell'olio bollente, e poi possono essere salate o dolci, nel senso che si possono salare oppure inzuccherare. Senta, ma in quale ci dia il nome, prego, del chiosco di Bari dove no, lei mangia? No, allora attenzione Paolini, le dico questo. All'ingresso dell'arco per andare nella Basilica di San Nicola, famosissima, certo, Basilica di San Nicola, da sempre praticamente c'è questo chiosco di Graziella, ecco. È super famosa, e dico, se mi consente 30 secondi, leggevo parecchi mesi fa Newsweek, credo che fosse come giornale, sì, e c'era un famoso Paolini statunitense che faceva l'elenco dei 100 ristoranti più famosi del mondo, li elencava tutti, 99 erano da paura in versione al costo, e uno era proprio questo chiosco di Graziella. Sì, è andata via la telefonata. Ok, ho capito, uno era di questi, però parleremo poi degli Stati Uniti, caro Pino, se continua a ascoltare sentirà. Bene, io ora vado, voglio continuare appunto questo viaggio per l'Italia, da Pepe a Catanzaro. Bene, un chiosco di Catanzaro, Pepe il Rosso per l'esattezza. Perché? Perché lì si mangia il morzello è una specialità catanzarese, e il rosso ce lo spiega il nostro Massimiliano, perché si chiama Pepe il Rosso. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno. Allora, perché si chiama Pepe il Rosso? Perché il vecchio gestore era di carnagione rossa, nel senso quindi non era il peperoncino, non si tratta di peperoncino. No. Lo chiamavano in poche parole Pepe le Rouge, un po' francesizzato, perché era perché aveva i capelli rossi, okay, in questo senso. E questa è un'osteria che ha oltre 100 anni e nasce il morzello. Il morzello è un piatto tipico di vitello, uno spezzatino di trippa di vitello e interiore di vitello che viene cucinato quasi per 12 ore, 6 ore, poi si fa riposare e poi riparte per altre 6 ore. Viene, si può mangiare in due modi: in pitta, che è un pane fatto al forno e nasce come prova da forno dei vecchi fornai, per vedere se il forno aveva raggiunto la temperatura, loro facevano questo pane. Si taglia a portafoglio e si riempie di questo morzello. E quindi ci sono parecchi chioschi a Catanzaro, se non erro, sul lungomare. Una volta Catanzaro era piena di queste botteghe, le cosiddette boutique. Ora siamo rimasti veramente in pochi, 3-4 diciamo. Ho capito. È un piatto veramente centenario. Nasce da una donna che lavorava al macello, caduta in bassa fortuna, raccoglieva le frattaglie di vitello che i ricchi diciamo buttavano. E si sono inventati questo piatto che si può degustare solo a Catanzaro, tra l'altro, in poche, sì, cosiddette boutique. E non si è diffuso sul resto della Calabria, quindi è proprio del territorio. Grazie a lei, sì, Massimiliano. Ma ora andiamo in Abruzzo, andiamo in provincia di Teramo, a Castilenti, da Vincenzo Leone, perché anche qui c'è una grande specialità del cibo di strada, che sono gli arrosticini. Buongiorno Leone. Buongiorno. Allora, come sono questi arrosticini? Ci racconti, ci faccia venire voglia di mangiarli. Gli arrosticini sono un prodotto fantastico, sono praticamente oggi è come andare a Napoli e non mangiare la frita e la pizza. Praticamente venire in Abruzzo e non mangiare gli arrosticini praticamente è la stessa cosa. E noi praticamente niente, abbiamo iniziato la nostra attività semplicemente a scopo locale, oggi devo dire che è diventata proprio una meta turistica. Ecco, vede come, sì, cosa portano il cibo di strada. Ma cos'è l'arrosticino? Sì. Ci dica cos'è? Praticamente è fatta esclusivamente di carne ovina e noi praticamente facciamo la filiera corta, quindi ci occupiamo del bestiame, facciamo l'alimentazione al bestiame, tutto quanto, e abbiamo un nostro laboratorio poi per prepararli. E sono delle fettine di carne, poi vengono fatti, togliamo tutti i nervi, tutto preciso, togliamo il grasso in più, eccetera. Vengono messi in una piccola macchina, in uno strato di magro, uno strato di grasso, sempre di carne ovina. Dopodiché vengono inceppati e vengono tagliati, escono degli spiedini. Escono. Poi praticamente mia mamma, che è diciamo, la titolare, insieme a mio padre sono i fondatori dell'attività, praticamente diciamo li ripassa a mano, li controlla uno per uno prima che poi vengono messi sulla brace e vengono somministrati a tavola. Grazie Leone, buon appetito ai nostri radioascoltatori con questi racconti. Sentiamo Alessandro dalla provincia di Milano. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Paolini, complimenti per la trasmissione. Prego, ho un minuto solo, prego. Sì, io tempo fa ho scoperto ad Ancona una cosa che si chiama le spuntature, sì, che sono intestini di agnello da latte che vengono cotti alla brace con finocchio forte e abbondante pepe e serviti su una fetta di pane abbrustolito. È una cosa veramente deliziosa, solo che ultimamente tutti i chioschi che conoscevo sono spariti e non, è anni che non riesco più a trovarne. Ora facciamo un appello, chi conosce qualche chiosco si faccia avanti. Andrea da Urbino, un altro radioascoltatore. Buongiorno Andrea, veloce. Buongiorno, salve, io volevo spezzare una lancia a favore della porchetta pesarese, che secondo me non ha niente da invidiare a quella di Ariccia. Bene. C'è una bella tradizione e la speranza è che ci siano sempre più produttori di porchetta che utilizzeranno ma guardi, il maiale in giro per l'Italia ce ne sono tanti, purtroppo, il maiale locale. Ecco, purtroppo. E poi però so che non sono in tema, però 5 secondi forse lei me li dà, io vorrei un suo giudizio, che credo che interesserà moltissimo a tutti gli ascoltatori, su quello che è successo con il famoso winemaker Bressan, che è stato cacciato dalla guida di Slow Food, Slow Wine, che lei sicuramente conosce la situazione, e mi piacerebbe moltissimo, a parte la porchetta, che bisogna mangiare non troppo, ma abbastanza di frequente. Bene, non è che non lo voglia fare questo giudizio, ma oggi parliamo di street food, poi magari in una prossima punteremo potremo parlare anche di questo. Il gastronauta. Fateci largo che passiamo noi, sti giovanotti desta Roma bella, siamo ragazzi fatti col pennello e le ragazze fanno innamorare e le ragazze fanno innamorare. Ma che ci frega, ma che ci importa se lo stravino ci ha messo l'acqua e noi edimo e noi famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli e gli rispondemo in coro, è meglio rapino dei castelli che questa zozza società. Questo per introdurre un radioascoltatore, mi sembra da Roma. Buongiorno Emanuele. Buongiorno Paolini, salve. Complimenti per la trasmissione, mi state facendo venire una fame. Ecco. La metà basta, insomma. Mi dica. Da Roma, io volevo intervenire per lamentarmi un po' del fatto che il cibo di strada a Roma sta piano piano scomparendo, perché al di là delle pizzerie a taglio, che è la tipica pizza a taglio romana, che è una pizza rossa, oppure la pizza bianca, che si sta un po' imbastardendo perché stanno quasi tutti diventando pizza e kebab, noi sostanzialmente abbiamo soltanto i cosiddetti sozzoni, quelli che fanno il panino con la salsiccia, ma... Beh, voi avete la porchetta a Roma, non mi dica che non c'è più la porchetta. La porchetta è più che di Roma, è dei Castelli. Sì, però Roma un po' fuori. Però questi carretti ci sono. Poi a Roma avete una cosa che io qua vado pazzo, la gratta cake. Non mi dica la che gratta, non c'è. La gratta checca che comunque oramai è ridotta ad alcuni posti. Beh, però ci sono ancora, si sono salvati, grazie Emanuele, la voce da Roma. Bene, io ho parlato prima degli Stati Uniti, ho parlato di questo boom in giro per il mondo. Allora abbiamo con noi Sara Roversi di You Can Group di Bologna, che ultimamente è stata proprio a vedere un festival del cibo di strada, là sarà street food negli Stati Uniti, e vorrei che lei ci raccontasse brevissimamente qualcosa di questo fenomeno in America. Buongiorno Sara. Ciao, buongiorno, ciao Davide. Sì, sono appena tornata appunto da questo viaggio splendido in California, dove abbiamo fatto un po' di ricerca su tutte quelle che sono le nuove tendenze del food. E diciamo che sicuramente lo street food ha catturato la nostra attenzione. Abbiamo partecipato allo Street Food Festival di San Francisco, che è un evento splendido che si ripete ormai da parecchi anni e ogni anno presenta una rassegna di circa 100 espositori che non lavorano nel classico food truck che si trova in giro per le città americane, ma hanno tutti stand uguali e offrono piatti da 3, 5, 8 dollari e offrendo una varietà immensa, quindi da cibi orientali, hummus, piuttosto che ovviamente hamburger in tutte le salse, perché anche lì è il trend del momento, sudamericani, tantissimi format sudamericani, non tantissimi format italiani. Questo un po' mi dispiace, anche se poi in realtà tutto ciò che è Italian food rimane protagonista su tutti i temi del food, al di là dello street food. Quindi niente piadina, niente gnocco fritto, niente... Niente piadina, niente gnocco fritto. In realtà nei vari food truck garden, spazi in giro per la città, abbiamo intercettato più volte un format splendido italiano che ha vinto anche il premio come best food truck l'anno scorso a San Francisco, che si chiama Pizza del Popolo. Vi invito a cercare anche su Instagram loro foto, sono i ragazzi che hanno preso innanzitutto un food truck italiano e non americano, le pareti sono tutte in vetro e hanno ricreato nel mezzo di questo enorme camion un forno di pietra e fanno la pizza a vista con il forno a legna, ed è splendido perché proprio è bellissimo, quindi si distingue da tutti gli altri, quindi siamo pochi ma buoni, diciamo. Bene. Grazie Sara, grazie. Tu pensi che ci sia qualcosa da prendere da questa iniziativa? Diciamo appunto, se non altro sui food truck, magari potrebbero migliorare anche i nostri chioschi italiani, perché ce ne sono alcuni, è vero, sicuramente, che danno l'idea di non curare molto l'igiene. Ecco, in realtà in America sono super curati, dall'immagine coordinata alla tipologia dei food truck, sono tutti molto, innanzitutto sono molto più grandi, in Italia vediamo principalmente Apecar o comunque modelli più piccolini, quindi non autonomi, invece lì sono delle vere e proprie cucine ambulanti, molto spesso sono la vetrina ambulante di attività che poi dopo hanno dietro ristorazione, ecco, e grandi compagnie di catering. L'altra cosa che secondo me possiamo prendere è l'organizzazione. nel senso che si sono sviluppate ovviamente agenzie che si occupano del booking di questi food truck, che vanno fuori dalle aziende, fanno eventi privati e hanno tanti spazi all'interno delle città o spazi privati che proprio offrono tutti i giorni prodotti nuovi e food truck differenti, quindi è ormai un'attività consolidata e si va a cena al food truck park. Grazie Sara, e ora torniamo in Italia e andiamo in una macelleria di Martina Franca. Ho detto prima che la Puglia sicuramente ha una straordinaria tradizione, così come la Sicilia nel discorso del cibo di strada, e andiamo da Michele Citto, perché Michele Citto ci può parlare di bombette, di New Mareddu, ci può parlare anche di zampina. Buongiorno Citto. Buongiorno. Allora, mi dici com'è la bombetta, com'è composta? Perché in altre parti sono polpette ma non hanno il contenuto che avete voi in Puglia. Ci vuole dire cosa ci mettete dentro? Intanto specifichiamo che non è una polpetta. La bombetta è niente, un fagottino fatto con una fettina di capocollo di maiale farcito di formaggio, sale e pepe. Il formaggio che mettiamo dentro è un canestrato pugliese. La bombetta è una delle nostre specialità che nella nostra zona, nella zona di Martina Franca, ma anche nella zona della Valle d'Itria, proponiamo come specialità al fornello. Ecco, questa classica cottura tipica della nostra zona, dove queste specialità vengono infilzate in uno spiedo metallico e cotte, diciamo, quasi in diretta davanti al cliente nei nostri fornelli che alimentiamo a carbone di legna. È una specialità che insomma sta riscontrando tanto successo, come abbiamo creato tanto da creare anche un'associazione, quelli della bombetta, e la proponiamo un po' in tutta Italia in grosse manifestazioni, cerchiamo di essere presenti e cerchiamo un po' di esportare questa nostra prelibatezza. E New Mareddu? New Mareddu invece sono altre specialità, fanno sempre parte un po' di queste specialità al fornello. Parliamo invece di frattaglie di agnello, cuore, polmone, fegato, avvolti nel budellino, e quindi diciamo sono anche questi dei bocconcini che vengono infilzati allo spiedo e cotti sempre al fornello. Certo, chi non ha la possibilità della cottura al fornello, anche alla brace vanno benissimo, insomma. Perché da voi c'è questa grande tradizione del fornello, dei macellai, quindi sicuramente è una tradizione storica che arriva da molto lontano. Ai ricchi era riservato i tagli maggiori della carne, rimanevano questi tagli minori, e sono nate con la fantasia questi piatti. Ma c'è anche la zampina, perché io ho mangiato bombette, New Mareddu e zampina, anche la zampina. Certo. Hai detto bene, fa parte delle nostre tradizioni storiche, ed era diciamo dovuta anche all'ingegno dei nostri macellai, che non avendo all'epoca frigo e altro, avevano la necessità di smaltire anche queste frattaglie, in quanto la carne e i pezzi più pregiati venivano in qualche modo diciamo acquistati da chi se lo poteva permettere, e parliamo sempre delle feste, insomma. La tecnica del fornello in qualche modo anche il popolino, chi non si poteva permettere i tagli pregiati, diciamo festeggiava ugualmente con queste prelibatezze fatte con la frattaglia, con le frattaglie. La zampina è sempre una salsiccia che insomma tipica di una zona vicino a noi, vicino a Martina, vicino alla Valle d'Itria, che è San Michele di Bari, che è una salsiccia sempre mista di suino, vitello e aromatizzata con del pomodoro, con del basilico, rimane in questo modo molto succosa, molto, molto anche questa gustosa e gradita dai consumatori. Grazie Michele, ricordo numero verde 800 24 00 24. Sentiamo Ruggero dalla provincia di Brescia. Buongiorno Ruggero. Buongiorno Davide, io chiamavo appunto perché quando sento parlare di street food io penso alle patate fritte, e diciamo che in Italia ultimamente questa abitudine di preparare patate fritte con tutti i criteri giusti e corretti appunto non la riscontro più da nessuna parte, cioè ci sono sempre questi oli esausti e comunque queste patate che sono tutte uguali, spesso molto unte, quando invece all'estero ho riscontrato che esistono brand franchising veri e propri che propongono patate con tagli particolari, anche grezze magari con buccia, però cotte in una maniera che comunque dà soddisfazione poi al palato. E... Beh, io non la farei rientrare nella categoria dello street food, però sicuramente può essere vero quello che lei ci sta dicendo su questo deterioramento italiano. Non so, perché non ricordo dei chioschi che fanno appunto patate fritte. Volevo però ricordare, ci sono tantissimi sms che mi citano 5-5 a Livorno, sì, è fantastico, il famoso 5-5 a Livorno, anche questo molto divertente, e ricordo Gagarin, che è un posto dove si mangia. Altri mi ricordano un chiosco di fronte allo stadio a Cesena, dove si mangia il cassone. Ecco, io preferisco invece del cassone di Cesena il tortello sulla lastra, che è più della mia zona romagnola, lo ritengo un piatto straordinario che è diventato anche un antipasto nel noto ristorante Il Gambero Rosso di San Piero in Bagno. Poi ce ne sono altri, però volevo ricordare, non so se avete sentito dai nostri invitati, gli ingredienti che usano sono tutti di grande qualità: olio d'oliva extravergine, prodotti di slow food, garantiti da slow food e tante altro. Quindi credo che questo sia veramente un po' la risposta a chi pensa che dietro quei chioschi ci sia chissà che cosa. Patrizia da Roma, buongiorno. Buongiorno Davide, io volevo parlarle del mercato nuovo di Testaccio, che ha ripristinato l'allezzo alla picchiapò e la trippa nei panini, buonissima. Bene, qui vede, allora rispondiamo al suo concittadino che diceva che a Roma non c'era più street food. Grazie Patrizia di questa sollecitazione, di questo intervento. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, continuiamo questo viaggio, e non potevamo non andare in Sicilia, anche perché Palermo e tutta la Sicilia, come posso dire, è un po' il regno del cibo di strada. Cameus, arancini, pane, panelle, poi si potrebbe continuare non so fino a quando. E allora andiamo in un chiosco di Franco Uvastidaru. Ho detto bene, Franco, il suo nome? Sì, buongiorno, Franco Uvastidaru. Senta Franco, ma cosa chiede più la gente? Arancini o cameusa? Di più è richiesto sia l'amico che le panelle. Le arancine è stesso posto. Ma ecco, lei... prima materia fanno con l'amico e le panelle. Lei ha detto giustamente arancine, perché arancini sono a Catania, se non erro, vero? C'è, no, questa... è una specialità anche nostra di Palermo. C'è questa... Catania, sì, ma anche noi le facciamo. Sì, no, lo so, però c'è questa differenza tra... pane con la mezza e le panelle. No, dicevo che sulle arancine c'è questa differenza, arancine a Palermo o arancine a Catania o viceversa. So che c'è sempre, diciamo, questo distinguo. Senta, ci può dire cos'è il cane Meusa, il cameusa? Che io so, però i nostri radioascoltatori magari molti non lo conoscono. Il pane con la mezza è mezza polmone trachea, prima viene lessata, poi raffreddata, affettata e riscaldata nello strutto, che si può fare anche sia con la ricotta e formaggio, mezza ricotta e formaggio, o anche eliminando la ricotta e formaggio solo limone. Comunque la più richiesta è a formaggio. Senta, e le arancine vanno più con la carne oppure con la mozzarella dentro o col formaggio dentro? Ma ambedue, ma più richieste con la carne e piselle, ma anche quella con la mozzarella, prosciutto, besciamella pure, e sono pure richieste. Comunque se la giocano tutte e due. Sono molti forestieri che vengono appunto per assaggiare queste specialità palermitane? Forestieri sono tanti, richiedono le panelle e la mezza, anche le arancine, la prima cosa che richiedono sia arancina, ma sono tutte e tre cose che vanno da primo, secondo e terzo posto, sia la mezza, primo, secondo, le panelle e terzo le arancine. Ho capito. Bene, io la ringrazio Franco, la ringrazio e niente, invito al suo chiosco perché sicuramente è molto molto rinomato e molto così frequentato. Numero verde 800 24 00 24. Io ora vado nella mia terra, perché vado in Romagna, vado a parlare della Piada, a seconda della... anche perché i romagnoli sono molto, molto localisti, ogni area ha la sua Piada, ogni area ha il suo modo di chiamare, Piada, Piadina, insomma, è un po' di tutto. Vado a Rimini, che è un po', diciamo, è importante per i chioschi Rimini, vado da Sergio Gnassi. Beh, il chiosco si chiama Nudo e Crudo, lo traduco, Nudo e Crudo. Buongiorno Gnassi. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Allora Gnassi, mi dica una cosa, la Piadina viene ancora molto richiesta, insomma siete ancora battuti da forestieri che vengono al mare e vengono a mangiarsi la piadina con lo squacquerone? Certo, la piadina va sempre di moda, non tramonta mai, sono sempre richiesta nelle varie versioni, come la nostra che proponiamo, la piada, come diceva prima lei, la nostra è sottile, si differenzia dalla parte alta della Romagna che è un po' più alta, e sono molto attratti dalla piada. È chiaro che va descritta come è fatta, gli ingredienti e tutta la tradizione che c'è dietro. Senta, io ricordo 4-5 anni fa di essermene anche occupato di questo caso clamoroso in giunta comunale a Rimini, di una battaglia tra la sinistra e la destra per accaparrarsi l'identità della piadina con la Nutella. Ma esiste ancora questa diatriba a Rimini? Ma la piada con la Nutella è una piada che piace, è inutile dirlo, piace molto soprattutto ai bambini e quindi è inevitabile, anche se noi cerchiamo di deviare la piada con la Nutella con altre alternative. E non so come sia andata a finire la diatriba sinceramente, ma comunque la piada con la Nutella è un prodotto che va. Beh, io non la metto in imbarazzo perché so che lei è il fratello del sindaco, ma la piada con la Nutella è di sinistra o di destra secondo lei? Ma secondo me passa a 360 gradi. Ho capito. Senta, Sergio, volevo chiederle questo. Diciamo che tradizionalmente la piadina si fa con lo strutto, però credo che i tempi siano un po' cambiati. Lei la fa ancora con lo strutto? Ma guardi, c'è una grande tendenza, infatti noi siamo tra gli innovatori, mi permetto di dirlo, e proponiamo sia la piada tradizionale con lo strutto, e tra l'altro ne mettiamo una quantità minima, e un'alternativa è l'olio extravergine di oliva, che esclude completamente lo strutto, e il risultato è notevole, piace molto, è molto più digeribile, più leggera. Addirittura usiamo anche farine biologiche che possono essere al monococco, ossia un grano primordiale, che è una via di mezzo tra il camut e il farro. E diciamo che tra piada con lo strutto e piada all'olio, con l'impasto all'olio, siamo quasi al 50%. La gente chiede proprio una piada più leggera ed è soddisfatta. Ma lo squacquerone funziona sempre, sì? Lo squacquerone funziona sempre, la gente rimane stupita per questo nostro prodotto, molto buono, un formaggio cremoso, e in tante versioni, come nel pit burger. Cos'è il pit burger? Cos'è il pit burger? Me lo spieghi? Il pit burger è una nostra invenzione, pit come piada, burger da hamburger, ed è una piada fatta appunto con l'impasto, che può essere sia con strutto, con olio, con l'impasto appunto al monococco è sempre olio, con una carne di chianina del Montefeltro e mora romagnola, quindi due tipi di carne abbiamo. La presentiamo con una crema di squacquerone, una cipolla stufata a bassa temperatura, foglia di lattuga e una fettina di pomodoro. Viene tutta racchiusa in un cofanetto e viene servita come un hamburger, si mangia con due mani. Beh, quindi devo dire che insomma c'è una trasformazione della piadina a diventare un piatto anche da ristorante, perché mi sembra un piatto abbastanza complicato, però questo è successo anche con il lampredotto, perché alcuni cuochi hanno trasformato appunto il lampredotto in un piatto, ma succede un po', ecco, questo è un po' un passaggio che sta avvenendo un po' dappertutto, cioè di trasformare il cibo di strada in qualcosa portato al piatto. Beh, l'hamburger credo che sia l'esempio più clamoroso, perché ormai non c'è ristorante che anche di ristoranti, molti ristoranti stellati ormai propongono hamburger, magari alla maniera dello chef, però lo propongono, e se pensiamo bene l'hamburger nasce in strada, appunto nelle strade negli Stati Uniti, anche se l'origine con quel vuol dire che hamburger è di origine, sembra di origine tedesca, appunto di qualcuno che provenisse dalla Germania. Io la ringrazio, Sergio Gnassi, Nude Crude di Rimini, ma voglio leggere un po' di SMS, perché ci sono tantissimi radioascoltatori che segnalano i loro preferiti. Vedo le meravigliose panelle del chiosco a Porta Garibaldi a Marsala. Bene, io vorrei indicare ad esempio Stella, la friggitoria Stella di Catania, e poi ancora molti, come dicevo, mi segnalano Gagarin. E poi anche per quanto riguarda le spuntature, mi dicono che oltre che a Milano, vabbè, a Milano non c'erano le spuntature, il signore di Milano è intervenuto per segnalare le spuntature in altra parte d'Italia, mi segnalano la chiusa di Agugliano, poi ancora, vabbè, ci sono tantissime segnalazioni che riguardano giustamente la Sicilia, ma ci sono anche segnalazioni che arrivano dalla Sardegna, il che vuol dire che il cibo di strada è ovunque, lo dicevamo prima, però io voglio ripetere quello che ho già detto. Avete sentito i prodotti che vengono usati? Sicuramente io credo che ci siano molti ristoranti e molte trattorie che non usano i prodotti che abbiamo sentito da molti di questi chioschi, appunto, dediti allo street food o al cibo di strada. È evidente che ci saranno anche molti chioschi, e quindi non voglio fare di tutta l'erba un fascio, ci saranno molti chioschi che assolutamente usano prodotti di scarsa qualità e magari dal punto di vista dell'igiene non sono così straordinari. E voglio anche segnalare una ricerca che è stata fatta dall'Università di Palermo, che il cibo di strada non è così deleterio per la salute, anzi ci sono alcune cose che su 1000 soggetti, appunto, che sono stati sottoposti a un controllo palermitani, i risultati sono stati di non aver trovato malattie o altro particolari. Bene, voglio ricordare che oggi e domani in provincia di Modena, a Marano sul Panaro, c'è la festa del luppolo autoctono, interessante perché è per la prima volta, una delle prime volte che viene prodotto luppolo nostrano per la birra artigianale. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro un bellissimo weekend, magari in qualche chiosco andate ad assaggiare e poi mi farete sapere. Caro saluto dal vostro Davide Paolini.